30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il presidente di turno dell'Assemblea del Vertice ONU sul clima ha dichiarato la chiusura dei lavori alle 15:28 di oggi pomeriggio. Cominciato il 7 dicembre scorso, il grande incontro si è chiuso dunque con 21 ore di ritardo rispetto all'orario previsto. Sono stati 193 i paesi che hanno partecipato alla conferenza, oltre 100 i capi di Stato e i premier, 45.000 le richieste di accredito. Buonasera, benvenuti a questo appuntamento con 30 minuti in cronaca, questa sera dedicato a Copenaghen. Direi naturalmente, visto che da due settimane cerchiamo di raccontare ciò che accade e ora cerchiamo di capire che cos'è accaduto. Di certo sappiamo che è stata una vera e propria maratona negoziale, quella di COP15, che ha prodotto migliaia di incontri, ma anche migliaia di ore di riprese televisive, fiumi di inchiostro, terabit di informazioni digitali. Insomma, i commenti questa sera non sono positivi. Si legge di fallimento, di occasione mancata, di accordo piccolo piccolo. In molti oggi hanno detto la montagna ha partorito un topolino, anche il Vaticano ha usato questa espressione. In questi minuti noi cerchiamo di capire che cos'è accaduto veramente a Copenaghen. Con noi due ospiti questa sera. Abbiamo Stefano Caserini, docente di fenomeni di inquinamento al Politecnico di Milano, che ci raggiunge tra un momento, e Marco Magrini, inviato del Sole 24 Ore, parecchi COP alle spalle. E ora Marco, buonasera dunque. Buonasera. Ti sento lontano? Ti senti? Ecco Marco Magrini, lontano ma in realtà a Copenaghen. Allora, dopo immagino peraltro che sia una città quasi trasformata questa sera. Come appare la capitale danese dopo che tutto quanto è terminato? Beh, ovviamente la maggior parte delle delegazioni è già andata via, è andata all'aeroporto. Abbiamo visto delle scene disastrose perché c'erano dei delegati che erano letteralmente sfiniti dopo questa maratona negoziale. Ho cercato di avvicinare un delegato africano poche ore fa e mi ha detto: scusi tanto, non voglio parlare, sono 50 ore che non dormo. Sì, sicuramente l'elemento fisico, insomma, tu peraltro sei lì in pista, come si dice, da 15 giorni. Il Bella Center è stato un posto, un enorme centro fieristico, migliaia di persone, migliaia di giornalisti, delegazioni in crescendo, lo ricordiamo, la prima settimana soprattutto le ONG, poi via via il crescendo verso i livelli dei capi di Stato, con il gran finale dell'arrivo del Presidente degli Stati Uniti. Ecco, la sensazione questa sera anche per te è che la montagna abbia partorito un topolino? Beh sì, questo senz'altro, perché come dicevi tu prima, questo vertice era atteso da ormai parecchi anni, diciamo almeno due, però in realtà molti di più, perché c'era bisogno di dare ovviamente una risposta rapida del mondo al problema del cambiamento climatico, ma soprattutto di dare un futuro al protocollo di Kyoto, che nel 2012, alla fine del 2012 scadrà, e come dire, c'era bisogno di farlo continuare. E invece la montagna ha prodotto un topolino, nel senso che è uscito un accordo piccolo piccolo dell'ultima ora, peraltro un accordo che ha evitato il disastro totale, cioè proprio la rottura dei negoziati, perché ci sono andati vicini, dove fondamentalmente non ci sono quegli impegni precisi che il mondo e soprattutto la comunità ambientalista chiedeva. Ecco, 12 punti, dopo vedremo insieme alcuni di questi passaggi. In realtà non è molto complesso, visto che sono tre pagine scarse, due pagine e mezzo, e poi delle pagine bianche di allegati che andranno completate nei prossimi giorni, e questo è sicuramente un elemento importante di questa storia. Intanto ci ha raggiunto Stefano Caserini, lo ricordo, docente di fenomeni di inquinamento al Politecnico di Milano. Buonasera, grazie di essere con noi Caserini. Buonasera. Allora, prima commento, prima riflessione: è la delusione che domina la scena o no? Sì, qual è il suo punto di vista? Ci sono degli elementi per essere delusi, ci sono anche degli elementi comunque per dire che non è proprio un disastro, sono qualcosa che è riuscito a salvare in modo un po' convulso all'ultimo momento. Che cosa, per esempio? Vediamo subito. Che cosa? Questi riguarda quell'accordo di Copenaghen nato in modo così un po' strano, di fatto sono richiamati comunque il principio dell'articolo 2 della Convenzione, appunto sul fatto di evitare un'interferenza dannosa dell'uomo con il clima, sono richiamate più volte il principio dell'equità, delle responsabilità comuni ma differenziate, il fatto che comunque si siano trovati in una stanza i più grandi leader di tutto il mondo, insomma il Sarkozy, la Merkel, Obama, poi Lula, anche insieme ai paesi del sviluppo per cercare di trovare un accordo, è comunque un segno che comunque la questione è sul tavolo. Non insomma, è Caserini dice sostanzialmente di sicuro c'è il, come dire, il riconoscimento a livello più alto possibile, perché di fatto appunto l'assise era importante di questo tema, e questo è sicuramente un aspetto. Ecco, quello che sicuramente ha contribuito molto a questo, diciamo, risultato è stato l'arrivo del presidente degli Stati Uniti. Mitigation, transparency, financing. First, all major economies must put forward decisive national actions that will reduce their emissions and begin to turn the corner. Questo era dunque, è dunque il presidente degli Stati Uniti Barack Obama: mitigation, transparency and financing. Questo l'ha detto ieri intorno a mezzogiorno. C'è stato subito dopo questo intervento un'attività molto intensa di conversazioni, di incontri, soprattutto incontri con i cinesi. Allora Marco, a quel punto c'era ancora una speranza più alta per un obiettivo più importante? Sì, nel senso che, no, anzi, forse mi correggo, probabilmente a quel punto non c'era la speranza. Non c'era più. Per un obiettivo più importante, e quindi siamo arrivati a questo documento che, come dicevamo, ecco, se vogliamo riassumere che cosa contiene, contiene la generica affermazione che la temperatura media del pianeta non può alzarsi oltre i 2 gradi quando calcolata rispetto all'inizio della rivoluzione industriale, e teniamo conto che è già salita di 0,8, perché i 2 gradi sono il livello che gli scienziati giudicano la soglia di pericolo da non superare in nessun modo. Poi semplicemente ci sono i fondi, che questa era la grande attesa, perché ci dovevano essere degli impegni per i fondi da dare ai paesi in via di sviluppo per le energie pulite, ma anche per proteggersi dagli effetti dei cambiamenti climatici, che ci sono stati, sono la metà dei previsti, ma soprattutto si dice genericamente che questi fondi verranno mobilitati da sorgenti pubbliche e private senza specificare quali, quindi assoluta vaghezza anche su questo. Si parla di 30 miliardi entro, diciamo, immediatamente per il triennio, di 100 miliardi di cui il presidente degli Stati Uniti si è impegnato a fare, come dire, che si è impegnato a raccogliere, però appunto in un periodo compreso entro il 2020. È vago. No, per la verità è dal 2020 in poi ci sono 100 miliardi l'anno. In realtà l'accordo non descrive assolutamente quello che noi immaginavamo, cioè che fra il 2012 e il 2020 ci sarebbe stato ancora un flusso di denaro. Secondo qualcuno è implicito, ma non è assolutamente scritto nel documento dell'accordo. Ecco, tra le cose che non sono scritte, e qui mi riferisco in particolare agli allegati, ieri sera una lunga conferenza stampa del presidente francese Sarkozy, che per in diverse occasioni è stato costretto a rifugiarsi in questi allegati che devono essere prodotti nelle prossime settimane, di fatto, e che dovrebbero definire l'impegno individuale sul taglio delle emissioni. Marco? Sì, cioè sostanzialmente a ogni paese viene chiesto entro gennaio che sta per arrivare, di annunciare quali sono le misure di taglio delle emissioni che intendono accettare. Ora, ovviamente, qual è il grande vantaggio di questo accordo, se ne vogliamo proprio cercare uno? È che mentre il protocollo di Kyoto interessa soltanto l'Europa, il Giappone, il Canada, l'Australia e pochi altri, che rappresentano il 30% delle emissioni di anidride carbonica mondiale. E non gli Stati Uniti e la Cina, peraltro. Perché gli Stati Uniti e la Cina non ci sono. Certo. Questo accordo, essendo fatto al tavolo con, anche con Cina, Stati Uniti, Brasile, India e quant'altri, interessa l'85% delle emissioni globali di anidride carbonica. Quindi, se vogliamo cercare un passo avanti disperatamente, questo è sicuramente... Ricordando che però ciascuno deve scrivere appunto entro la fine di gennaio i propri numeri, e quindi, come dire, Copenaghen da questo punto di vista non è ancora terminato. 30 minuti in cronaca. Stefano Caserini, perché i due gradi e perché si è discusso parecchio? I paesi africani, i paesi in via di sviluppo hanno detto due gradi per noi sono troppi. I due gradi è un numero che è emerso nel corso degli ultimi anni, diciamo anche nell'ultimo decennio, come un riferimento. Non è che a 1,99 e 2,01 cambi molto, di fatto viene visto un po' una soglia quasi di obiettivo quasi politico per cercare di limitare il grosso degli impatti. Va detto che un conto sono i 2 gradi da non superare mai, un conto è una stabilizzazione della temperatura del pianeta a lungo termine a 2 gradi. Quindi ormai la comunità scientifica ritiene che almeno proprio di azioni rapidissime i 2 gradi verranno superati in questo secolo. L'obiettivo è cercare poi di ridurre le emissioni in modo da fare in modo che il pianeta si assesti a un incremento di temperatura inferiore a 2 gradi. 2 gradi come valore medio, quindi poi le zone, le oceani si scaldano di meno, l'atmosfera sulle terre emerse si scalda di più, l'Africa ma anche il Mediterraneo, anche l'Italia si scalderanno più della media. Quindi gli africani sono preoccupati perché dei dati scientifici che sono disponibili mostrano che per loro un incremento di 3 gradi, 3,5 gradi potrebbe mettere in discussione le risorse idriche, quindi alcune coltivazioni. Quindi c'è una forte preoccupazione che è stata anche così consolidata da diverse conferenze scientifiche che si sono svolte a Copenaghen parallelamente alle negoziazioni. Copenaghen è stato effettivamente anche un ricchissimo momento per la presentazione di studi, ricerche e documentazioni. È stato anche il luogo della manifestazione, della protesta dei paesi in via di sviluppo, che spesso hanno diciamo fatto riferimento come nell'ombrello offerto dalla potente Cina. Will be participating in the preparation in the negotiation leading up to. Ecco, il vice ministro cinese all'ambiente He, Marco Magrini, è stato anche protagonista di una serie di scambi piuttosto vivaci, anche sorprendenti, come linguaggio poco diplomatico con Todd Stern, il negoziatore americano. Quanto ha pesato questo G2 all'interno dei lavori? È stato assolutamente determinante e devo dire che appunto il G2, cioè Cina e Stati Uniti, i due grandi dell'economia mondiale e i due grandi inquinatori del mondo, come dire, fra i due alla fine ha pesato sicuramente più la Cina, perché per un sacco di motivi, tanto per cominciare perché Barack Obama aveva le mani legate, perché tutto questo processo sarebbe andato in maniera completamente diversa se il Senato americano nei mesi scorsi avesse approvato la legge sui cambiamenti climatici proposta da Obama, cosa che il Senato continua a non voler fare, e per questo motivo Barack Obama non poteva fare un accordo con la Cina e con il resto del mondo che poi i senatori avrebbero criticato, mettendo a rischio l'approvazione della legge. Quindi qui che cosa si tratta di vedere? Se nei prossimi mesi effettivamente, come dice il senatore John Kerry, questo accordo di Copenaghen aiuterà l'approvazione della legge americana, vedremo un Barack Obama diverso a Città del Messico fra un anno, quando i paesi del mondo si troveranno di nuovo per tentare di fare questo accordo più ambizioso. Ecco, un accordo più ambizioso che abbiamo sentito ha tutta una serie di passaggi, che sono quello legislativo sul, appunto, sul bill americano che si presume al voto in primavera, incontri nell'estate, una pressione anche da parte dell'Europa. Caserini, volevo da lei capire, in termini scientifici, queste giornate di fatto si sono aperte con una dichiarazione importante da parte degli Stati Uniti, dall'Agenzia per l'Ambiente sulla CO2. Ecco, come si esce dal termine di Copenaghen su questo piano? Ah, Copenaghen di fatto ha confermato che l'allarme della comunità scientifica è arrivato alla politica. A Copenaghen in particolare potete notare che sono state più di 500 conferenze, non tutte a carattere scientifico, ma diverse decine, anche molto, molto belle a carattere scientifico. Forse per la vicinanza con l'Artico, il fatto che la Groenlandia, la Danimarca, di fatto c'è stata una grossa attenzione sul problema dei ghiacci, sul problema della fusione della calotta glaciale della Groenlandia, sul fatto che questo potrà aumentare l'innalzamento a livello del mare. Gli ultimi dati presentati, è stato presentato, io ho assistito alla presentazione del Copenhagen Diagnosis, quindi un tentativo di fare un approccio, un aggiornamento da parte di 26 tra i più grandi scienziati del mondo, del quattro rapporti IPCC del 2007. Bene, in questo rapporto presentato ci sono ancora elementi di preoccupazione che crescono rispetto al quarto rapporto di IPCC. Le emissioni stanno ancora aumentando, stanno accelerando, le temperature ormai chiarissimo che sono in crescita e si è visto appunto come il 2009, un anno che comunque sarà tra gli anni più caldi, anche se non il più caldo, e il Met Office inglese ha detto ci sono altre probabilità che il 2010 sarà forse l'anno più caldo mai registrata. Siamo tra il 2010 e tra il 2011. Ecco, su questo ovviamente non possiamo far altro. Tra l'altro io ringrazio Casarini, purtroppo la linea è anche un po' disturbata, staremo a vedere sui dati. Marco Magrini, stiamo uscendo forse dopo Copenaghen anche un po' da questa sfida ideologica che soprattutto nel nostro paese ha un po' caratterizzato questo tema, per cui in fondamentale schierarsi con naturalmente agli estremi catastrofisti, negazionisti, cioè si va verso una nuova fase a tuo avviso? Sicuramente sì, perché quasi 120 capi di Stato che sfilano davanti ai microfoni del mondo per dire che il cambiamento climatico esiste e che bisogna fare qualcosa non può non avere un impatto. Ovviamente, come dicevamo prima, un impegno più concreto, più delineato avrebbe, come dire, cambiato completamente il corso delle cose. Cosa che evidentemente non è accaduto. Una battuta volevo anche da te sulla città. Copenaghen è stata letteralmente invasa da migliaia di persone di diversa provenienza. Abbiamo assistito anche a degli scontri, alla tensione. Ecco, qual è la valutazione sull'organizzazione stessa, anche forse sul gigantismo di questi eventi? Era proprio necessario scomodare decine di migliaia di persone per arrivare a questi risultati? Certo, oggi è facile dirlo, visto che i risultati, abbiamo detto, sono piccoli piccoli. Sì, sai, quelle decine di migliaia di persone molto spesso erano attivisti dell'ambientalismo che desideravano ardentemente arrivare a esserci, questo appuntamento, certo, con la storia, ovviamente. Che appuntamento che non si è effettivamente concretizzato, ma non è questo il problema. Il problema è che l'organizzazione in effetti non ha tenuto conto minimamente dei problemi che ci potevano essere nella capienza del Bella Center. 15.000 posti e sono stati dati, tu citavi un numero di accrediti prima, 40.000 hai detto? Ho detto 35.000, senza ecco, contare 35.000. La parte giornalistica. Ecco, che erano altri 5.000. Esattamente. Per cui questo è stato veramente un errore, perché come tu sai, perché ci sei stato, le code all'ingresso sono state veramente un incubo e il risultato è stato che le Nazioni Unite ricorrere alla quota di ingresso per le organizzazioni non governative, facendo entrare solo 400 persone al giorno gli ultimi giorni. Cosa che ha anche suscitato tensioni, no? Che ha suscitato in parte le tensioni poi degli ultimi giorni. In una battuta, al prossimo appuntamento, dunque tu ce l'hai anticipato, visto ora ci sarà un COP16. Ci sarà un COP16 a Città del Messico, ma prima ci sono altri due appuntamenti. Il primo è quello di gennaio, che dicevamo prima, dove tutti i paesi devono fare la loro dichiarazione. 31 gennaio, quindi da tenere a mente. E poi a giugno, presumibilmente a giugno, ci sarà un vertice intermedio, anche questo presumibilmente a Bonn, dove si dovranno gettare le basi per qualcosa di più concreto a Città del Messico. Ma ripeto, l'appuntamento più importante è quello a Washington con la legge climatica di Obama, che se il Senato la approva è un conto, se non la approva probabilmente potremmo trovarci a Città del Messico fra un anno nella stessa identica situazione. E Copenaghen apparirebbe davvero ancora di più, anzi lì forse senza più punti interrogativi, un fallimento. Grazie a Marco Magrini, buon lavoro. Marco Magrini al lavoro lo vedrete e lo leggerete sulle pagine del Sole 24 Ore domani mattina. Gli approfondimenti sono anche sui siti web, molto ricchi in questi giorni. Per ora è tutto, non mi resta che lasciare la linea a GR24 e augurare a tutti voi un'ottima serata.